Mi avvertono dalla regia che siamo già in diretta, facciamo un riepilogo, siamo a Hack Meeting 2011, siamo nella serata del sabato, che è tradizionalmente nota per il massimo del delirio all'interno degli eventi Hack Meeting ogni anno, quando succede veramente di tutto, quando la notte ormai è diventata, si è inoltrata, piccola per voi. E inizia a succedere di tutto. Siamo qua con un paio di persone che sono degli abituati di questi eventi ogni anno e abbiamo. Si sente. Mi dicono che non si sente, ma non sanno che si sente in radio. Non si deve sentire qui. E allora vorrei. Mi dicono cose che non capisco, ma. Mi dicono cose, fanno cose. Ad ogni modo, siamo qua insieme a un paio di abitué con cui vorremmo scambiare quattro chiacchiere così in tranquillità, veramente sciolti. E abbiamo qua Scarf, abbiamo Null Pointer, abbiamo. C'era, ecco, sta arrivando Bomboclat. E niente. Allora, faremo. Qualcuno. Qua c'è una sedia per chi si vuole sedere. E facciamo il nostro. Allora, questa discussione. Intanto ci presentiamo noi e vi diciamo chi siamo noi. Noi siamo Transizione di Fase, siamo una piccolissima web radio. Abbiamo fatto questo nostro progetto di una radio indipendente. Ci siamo armati di buona volontà di un server Icecast. Ci siamo appoggiati a. E di indipendenza. Abbiamo voglia di fare le cose da noi, di autoprodurre il nostro media. E ci siamo armati di questa scheda audio che vedete qua, i nostri computer, la connessione internet col 3G, eccetera, eccetera. Voi non sapete niente di queste cose? Ok, faremo il progetto di questa discussione e fare una sorta di processo di Biscardi interno all'Hack Meeting dove succede. No, se si alza, Scarpo si alza e se ne va. Bene, vabbè, fondamentalmente, allora, poi, adesso siamo in diretta, ma è un sabato sera di estate, e no, noi abbiamo pubblicizzato questa diretta all'interno del wiki di Hack Meeting e anche in chat, quindi probabilmente, forse, qualcuno si collegherà, ma fondamentalmente non ci aspettiamo un grande ascolto il sabato sera di estate con questo caldo, la gente. Forse a Vibo Valentia in Calabria ci ascolta qualcuno. Anyway, ma fondamentalmente stiamo registrando questa registrazione verrà messa in podcast spero sia ascoltata da qualcuno. Transizione di Fase si è presentata, adesso che si presentino gli altri partecipanti del processo di Biscardi dell'Hack Meeting 2011. E passo il microfono a Scarf. Era fuori gioco, no, però ti posso dire una cosa: lì c'è un futuro direttamente proprio al processo dei Biscardi. Secondo me ci deve andare mo subito. Devo parlare più vicino perché non si sente. Ma che cazzo, cioè, ma di che devo parlare? Cioè, qual è l'argomento? Io non lo so, non ho mai capito. Ci sono venuto da solo. No, sì, sono insomma un bel po' che ci veniamo, un po' tutti quanti. Però io normalmente parlo soltanto in FM, per cui non siamo in FM, pare brutto. Pare brutto. No, no, no, no, no, no, mi fido, no, mi fido, mi fido. C'è l'ospite internazionale. Vabbè, che dire, secondo me. È stato insomma un po' come tutti gli altri anni anche quest'anno. Voi, cioè, dobbiamo fare un dibattito. Sì, dammi. Vuoi un tema di conversazione? Vabbè, no, non c'è un tema di conversazione specifico. Cerchiamo di parlare dell'esperienza di questo Hack Meeting 2011. Non lo so, per darti un input, non lo so, c'è cioè qualche seminario che ti ha colpito particolarmente o qualche persona che hai incontrato che ti ha dato un input di qualsiasi tipo? Sì, ormai già da parecchi anni l'unico mio mito è Magone, Il seminario di Magone, che poi fra l'altro è uno dei sex symbol dell'Hack Meeting ormai da anni. Sì, poi quest'anno ha fatto solo piscina, quindi addominali da paura, musica perfetta e il software che ha fatto pure, cioè, parla da solo, scritto da lui. Penso che sia assolutamente il seminario migliore di Hack Meeting. Aspettiamo di vederlo alla aspettiamo di vederlo alla Ceravella col culo dei fori, che finalmente ci farà godere a tutti. Esatto, e fra un po' c'è lo streaming dal giardino dei Finzi fiorentini, live in direct con Ceravella, Caccavella e po' di po', e po' di po'. Il fiore e Salma dice che c'è il fiore Salman, noi già ci bastava Salman e ci avanzava pure, però devo dire che dall'odore secondo me spoileresti essere il fiore Salman. Yeah, hello, I'm Mark Swimmel, I'm Richard Stallman's son, here from a different surname, and I came here to visit this this event because my father decided to go away earlier because his smell had stank all around the room and it was impossible to breathe. So at this end he decided to go back home and left me here as his replacement. I'm sorry. Ok, allora ha appena parlato Mark, che è il figlio di Richard Stallman, il padre spirituale del software libero, non solo spirituale ma anche materiale. Si è appena presentato e ha detto che suo padre lo ha lasciato qui questa sera in balia a noi. Sorry, I didn't get the question, but don't apologize to your father. So respect to your father. Yes, but your mother. Sorry. What's the problem with the water in your family? Well, what about the water? That I don't know what you're talking about. What kind of water? Mark, how old are you? I'm 23. How does it feel? Ah, scusate, ho chiesto quanti anni ha, ha 23 anni. Ora chiederò come ci si sente essere figli di Richard Stallman a 23 anni. How does it feel to be Richard Stallman's son, to be involved in so many initiatives like this? How does he Well, I'm different from my father. I mean, I'm more into all the anonymous subculture, and I'm mostly involved in the hardcore underground hacking. I'm not into free software, and you know, no, because I just want to own stuff. I want to own the FBI. That's what I want to do. Okay. Ha appena detto che lui è coinvolto con Anonymous, che in realtà quello a cui punta veramente è una collaborazione con l'FBI, giusto? No. To own FBI, own. Ah, ok, vuole possedere l'FBI. E qui finisce l'intervista pazza al figlio finto di Richard Stallman. E continuiamo invece con un altro ospite di questa serata, è Bomboclat, di Autistici. E Autistici quest'anno compie 10 anni. 10 anni. E vogliamo sapere... questa famiglia di Autistici, dopo 10 anni, è invecchiata o no? Come Autistici funziona o no? Ci mancano ancora 4 anni a arrivare al motorino. Siamo ancora indietro. Questo è il nostro problema. Altrimenti andrebbe tutto bene. Hai già finito con le dichiarazioni per la stampa, sei molto sullo stile no comment. Ma quindi tu sei la stampa? No, io sono io. La stampa qua dentro non ci può entrare. Siamo Allora, hanno appena cercato di mettermi in soggezione. Attenzione che è arrivato Jaromil. Altro elemento di spicco della cultura hacker, delle controculture digitali italiane. Jaromil, stiamo facendo... Fondamentalmente stiamo facendo un delirio radiofonico in streaming. Vorremmo sapere se tu sei interessato a partecipare a questo delirio, fondamentalmente dove ognuno sta dicendo quello che vuole perché sono ubriachi, fumati. Ho mai smesso di partecipare in questo delirio. Ok, ok. Allora... Che ci dice? Questa la sette che viene a fare le riprese oggi. No. Allora, Jaromil. Ah, sì, certo. Cilicio, scarpa. Oh, ma che stai scherzando? Ma che devo... Qua parlano di cilici. Da mettere. Allora, va bene, proviamo un attimo a riprendere le redini di questa situazione. Abbiamo qui Null Pointer e gli vorremmo fare una domanda seria. Questa è la domanda seria a Null Pointer. Che se mettete qua, bravo. A Null Pointer, ma di che cazzo parlava sto workshop stasera? Ne volevamo parlare? Dai. Quale workshop? Quello che c'è stato dopo cena, diciamo. Beh, il workshop non era proprio un workshop, era più o meno un dibattito sullo sciopero precario nerd, ovvero come i nerd... possono contribuire con gli strumenti tecnologici, con gli strumenti tecnologici a creare un momento di rivendicazione dei precari e dei non precari in maniera auto-organizzata, più che altro. Poi, nello specifico, si voleva tirar fuori qualche idea nuova dal punto di vista tecnico, ma ci siamo arenati nell'analisi della condizione di precarietà. Infatti era questa la domanda, dico comunque, nonostante l'idea di base fosse interessante, a un certo punto il dibattito è trasecolato, come ogni volta che si apre il dibattito sulla precarietà è stallato. Però alcune proposte c'erano state che erano state interessanti, a mio avviso, diciamo varie e variopinte, però niente, quindi poi io sono andato via, non si è riusciti ad avere No, c'erano degli individui e delle individue losche, molesti, ubriache, quindi ci siamo fermati. Va bene, un resoconto parziale di questo hack meeting qual è? Come sta andando questo hack meeting? Tocca a te che tu sei? Io sono Espaz, cioè mi sembra il ruolo durissimo dover fare adesso, come dire, una summa di questo hack meeting. Questo devo dire è il mio decimo hack meeting, quindi io ero qui per festeggiare, basta. Devo ammetterlo. Ma 10 anni fa avevi 5 anni, com'è possibile? Tesoro, sei proprio un galantuomo, Null Pointer, veramente l'uomo più galante dell'hack meeting. Comunque, il mio resoconto è, diciamo, una comunità che continua a produrre positivamente diversi contenuti che vanno veramente dalla discussione sull'hardware al software, che comunque continua a portare il suo portato anche di vita, perché comunque questa è una comunità che suo malgrado si è invecchiata, suo malgrado, ma no, in realtà questa cosa è, come dire, fare di necessità virtù. Siamo tutti invecchiati, ma stiamo anche proponendo delle alternative nella nostra vita, nel senso che tante persone in qualche modo stanno concretizzando una loro cioè una serie di posizioni, di loro assunti, cioè di cose che si immaginavano potessero essere delle utopie quando avevano 20 anni, adesso stanno continuando a portarle avanti, e questo comunque è, secondo me, è un dato positivo. Continuano a venire qui all'hack meeting a presentare anche semplicemente quello che sono, la loro soggettività, come una soggettività possibile ancora. Forse parlavamo con Scarf, che ora fa il vago lì sotto, però dicevo per l'appunto che forse una delle realtà di movimento con più storia al momento, l'Hack Meeting, mi pare. Ah, questo senso che ci abbiamo la noi anche noi il nostro motorino l'abbiamo già preso, su quello possiamo stare tranquilli. Jamiro guai, uno dei vecchi della Aspetta. Allora, la cosa che è uscita fuori è: pensa a qualcosa embedded e dimmi il nome. Esatto, ai signori ascoltatori, adesso sentiremo una scalettina delle cose embedded dall'alto livello verso il basso livello da delle persone ubriache in questo momento. Quindi, signori, passiamo direttamente ai contenuti. No, non so niente. Busy Box. Non ne so niente. FPGA. Possiamo dire una SPI. SDCC compila per Atmel e AVR, quindi non è mai detto, perché non è embedded. Secondo me non è embedded. È precedente. No, viene prima, vengono prima i microcontroller. Cioè in senso lato, prima sono andati i microcontroller, ma non sono stati definiti sistemi embedded. E non sono definiti i microcontroller. La questione a cui siamo arrivati è molto spinosa. Voi avete un chip Atmel o un Texas Instrument, un AVR in mano e pensate embedded. No, non è. Non penso embedded. Sei malato. Quindi Arduino non è embedded. Secondo me no. Questa cosa è pazzesca pensarci, perché c'è una prospettiva storica sulla tecnologia. No, ma descrivimi. No, ma state registrando? Penso stia ascoltando gente. Ma siamo ancora in diretta. Volevo fare una domanda a Jamiromil. Come ti hanno... Ma lì... Lì c'è uno che dice che è il figlio di Stallman, ma sanno tutti che l'unico vero figlio di Stallman sei tu. Com'è possibile? Non è possibile. Non sei già... Ma tu non sei Jamiromil? Sì, esattamente così. Sì. La versione bagata. Stallmiro, figlio di Stallman. Nessuno l'ha mai detto. No, impossibile. Nego tutto. Va bene, ok, dopo questi 10 minuti di delirio sono serviti a prepararvi all'ascolto di, come si chiama la lettura? Collane di ruggine nello spazio... Musicate da Magone, qui fuori... Il vero figo del Bigonzo, peccato che ci pare che non è appetibile, però comunque dicevamo, è appetibile, quindi lo streaming finisce qui e... Vogliamo introdurre Collane di ruggine? Introduciamo Collane di ruggine, dai! Rapidamente così. Collane di ruggine è un esperimento di scrittura nato proprio dall'Hack Meeting e da varie individualità che frequentano regolarmente Hack Meeting. Siccome abbiamo, non parlo di Hack Meeting, ma parlo di tutto, insomma, le controculture hanno nei vari anni fatto varie cose, autoprodotto musica, autoprodotto tante cose, ma a livello di letteratura non si era ancora fatto nulla di amatoriale proveniente da questa comunità, e quindi si è voluto fare un primo esperimento di scrittura dal basso, di brevi racconti autoprodotto, pubblicato. Come si è svolto materialmente questo esperimento di scrittura collettiva? Come si è svolto questo esperimento di scrittura collettiva con Lana di Ruggi? No, non è proprio collettivo, è una raccolta di racconti, ma non è che sono... Cioè, ogni racconto ha il suo autore, la sua autrice, qualcuno è scritto collettivamente, ma non è un esperimento di scrittura collettiva, diciamo. Va bene, allora andiamo ad ascoltarlo fuori, quindi fra pochissimo proprio ci riconnetteremo dallo spazio fuori, così ci ascoltiamo un altro po' di roba. Nel frattempo vi lasciamo al nostro simpatico scusatemi, Anam, che ci streama un po' di random notturno. A quest'ora sicuramente ci sarà la nostra selecta elettronica. Un buon ascolto a tutti e a tutte.